Non posso fermarmi. Il corridoio è lungo e nel carcere chi attraversa per andare da un posto all'altro non si può fermare. Non posso stare. Il tempo è contenuto. Devi avere qualcosa da fare. Il tempo è limitato per fare qualunque cosa. Anche la pena da scontare ha un limite. Un inizio e una fine stabiliti. Devi farci i conti col tempo definito, anche quando sembra eterno. Vengo qui a fare teatro. Da diversi anni ormai. Da un anno vado anche al G9, primo piano precauzionale. G9, primo piano precauzionale. Non lo so perché le varie sezioni abbiano un numero dopo la lettera G e perché tra questi numeri manchino i primi 7 della scala numerica che conosciamo. E non ne voglio sapere. Priorità. Rinuncio alla soddisfazione di questa curiosità perché altro ogni volta mi cattura. Il corridoio mi serve a cambiare il ritmo che dal mondo esterno a dentro deve mutare. Il corridoio simula una nascita, un passaggio, una mediazione, un collegamento tra isole. Alcatraz doveva essere un inferno. Anche questo dicono che lo sia. C'è forse un carcere che non si possa paragonare ad un inferno? Devo dichiararmi. Mi chiamo Daniela M. Sono qui perché faccio teatro fuori e per questa ragione vengo a farlo anche dentro. Sembro idonea, compatibile con la personalità del detenuto, con un concetto di cattività catartica che deve convivere con fatti di cattiveria incattivita dalla pena. Complicato più a dirlo che a farlo. Ne so troppo poco, ma mi fido di chi mi affida un ruolo. Paola qui conosce tutti. Mi fido di lei, che conosce anche me. Mi fido di Fabio, che oggi non è qui. Ora sono sola. Articolo 17. Può passare di sotto in cappella dalle 16 alle 18. Le consegno le chiavi, le apro il cancello per accedere alla rampa di scale che scende. Quanti sono? Sulla lista per ora 20. 20 uomini autorizzati dalla direzione a partecipare al laboratorio teatrale. 20 uomini detenuti per reati indicibili. Ho un posto dove mettere le cose che non voglio sapere. Quelle inutili. I peccati. Ed i perché. C'è dentro di me un mistero utile che si nutre ogni volta che vengo qui. E che mi sostiene. Cominciano a scendere dal primo piano della sezione G9. Siamo gentili. Loro, tutti, con me, sono rispettosi. Formalmente. La recita è cominciata, più o meno consapevolmente. C'è uno con gli occhi così grandi e azzurri che dicono pensieri forti che non capisco, ma che mi stordiscono. Pochi secondi e sposto lo sguardo su di lui. Il ragazzo che sfida il freddo, giovane, risoluto, timido, Francesco. Si tiene a distanza di sicurezza, tattica per tenere tutto sotto controllo e non farsi contaminare. Elaboro velocemente senza volere e so che devo spostare la mia attenzione agli altri. Ci stiamo studiando, anche oggi, o meglio, ognuno di loro sta studiando me, che devo giocare la mia partita di abilità. Una contro tutti. Sorrido. Penso al mio partner, a Fabio, che mi ha proposto questo laboratorio teatrale qualche mese fa. Sembrava casuale quel giorno alla festa in onore di Braccia, l'agente di polizia penitenziaria che andava in pensione, glorioso custode per anni del teatro di Repipia. Te la sentiresti? Solo tu lo puoi fare. Ci sarò anch'io, naturalmente. Quelli a cui l'ho chiesto mi hanno detto di no. Perché io sto per dire sì? A chi prima di me ha chiesto di immergersi nella feccia del genere umano? Posso immaginarlo? Posso immaginarlo. Non gliel'ho chiesto. Non voglio conoscere le ragioni di quel rifiuto. Non ne ho il tempo. Questa cosa scotta, urge, crea disagio. Sì o no? Contagiata dalla stessa urgenza di non confrontarsi con questa paura, dico sì. Proviamo. Istintivamente aggiungo che ci tutelerà presentarci in coppia. Questa è l'unica mia richiesta. Insieme, almeno per i primi tempi. richiesta accordata. I reati a sfondo sessuale cominciano lì dove una figura femminile e una figura maschile hanno forme e dimensioni alterate. Forse uno squilibrio, la base per comprendere e rispettare le differenze culturali, religiose, linguistiche e sociali, sta nella comprensione e accettazione della differenza sessuale. Devo averlo letto da qualche parte. Ho detto così, forse solo per dire, non lasciarmi sola in questa storia. Forse lui l'ha detto a me, perché non voleva essere solo in questa avventura. Entrambi catturati da un oscuro bisogno di provare. Di provare ad andare oltre. Che sarà mai? Già. Mai prima di allora. Alcuna attività teatrale al G9 primo piano precauzionale. Sezione dove i detenuti restano isolati per aver commesso reati sessuali o per essere appartenuti a forze dell'ordine. Ci sono anche detenuti che da altre sezioni vengono trasferiti qui per motivi precauzionali. Tutti isolati anche dal contatto con detenuti di altre sezioni. Non si sa mai bene il perché uno si infili in una strada che potrebbe essere senza uscita. Vale per me. Vale per chi commette certi reati. E io sono pure una donna. Fammi che la cabù, indifferentemente, tanto saccio capo, per te non so più niente, e damma stu veleno, non aspetta di mano. Che indifferentemente, se tu m'accire, io non ti riga niente. Mino, il cantante, uomo di spettacolo, dichiara che senza musica rischio di impazzire qua dentro. Ho perso 20 chili, so calato 20 chili. Mentre mi pare che non sia affatto sottopeso. Ho anche la sensazione che esalti il successo riscosso fuori per essere più credibile. Mi pento di aver dubitato della sua verità. E siamo portati a non credere a quello che ci sentiamo dire, ma a fidarci delle sensazioni, per poi tornare a dubitare anche di queste. In realtà credo a tante cose che mi dicono, ma mi comporto da diffidente. Mi pare così che la mia immagine sia più autorevole. Comincia a incuriosirmi quella parte oscura che mi incoraggia e al tempo stesso la temo. Penso che quell'omone che mi guarda incantato dietro un paio di occhialini messi di squincio e con la mandibola rilassata come chi vive in condizioni di stupore perpetuo, oscillante da destra a sinistra, sia in realtà così imbottito di psicofarmaci da somigliare a se stesso. Si è dato. Perché? Perché qui mi dicono lo sono un po' tutti. Sarà vero. Comunque a Massimo si vede di più. Forse è il più pericoloso, il più ribelle, il più depresso, il migliore. Meno male che sta qui. E non ad Aversa. Questo non è un manicomio criminale. O come si dice, un ospedale psichiatrico giudiziario. E non ne voglio parlare. Priorità. Neon? In odore di santa umidità ci attende dal primo giorno ed ogni volta nella casa povera del Signore dietro le sbarre. Il freddo umido e l'umido caldiccio nella cappella del G9 non ci abbandoneranno mai. Vengo qui a fare teatro in una cappella con un altare in pietra e due file di panche di legno che regolarmente spostiamo, solo i primi due ranghi, per creare lo spazio scenico. A seconda delle ricorrenze religiose, ci fa da spettatore pietoso Padre Pio, piccola statuetta di circa 40 centimetri, o la Madonna, ben più alta, Vergine Santa, azzurra e bianca di gesso immacolato, circondato da qualche cero e da anni di suppliche che se ti avvicini ai suoi piedi energia che hanno lasciato quasi d'investe. Ai candidi piedi di Maria spesso anche una rosa rossa dallo stelo lungo. Abbiate pietà, pare rammentarci. Quanto alla parola del Signore, il Vangelo è aperto sull'altare alla pagina del giorno. Una volta c'è stata anche l'ampolla del vino che diventerà il sangue di Cristo. Prendete e bevetene tutti. E così lui, l'omone dallo stupore indotto nella mandibola aperta, ne beve. E per quel giorno mi parve soddisfatto della sua scelta di fare teatro. Procediamo come rabdomanti che fingono di sapere dove e perché cercare il talento nascosto. Penso ai metodi, alle scuole di recitazione, ai miei maestri, a Stanislavski. Sussulti di passioni sepolte paiono resuscitare e mi chiedo se questo caos ci aiuterà. Grotowski, non sarebbe questo un luogo ideale? Tutto appare disperso, dentro e fuori di me. Oggi me la devo vedere con quello che sono, sola, con quello che ho dimenticato, con quello che si è trasformato, con quello che ho scelto di non essere. Ma un'energia potente, come massa silenziosa e indistinta, dirige ogni scelta. Qui ognuno è solo e avverte la solitudine dell'altro che gli fa compagnia, libero o detenuto. Il ragazzone croato con gli occhi chiari e troppi muscoli ascolta attentamente. O almeno così voglio credere. Devo distrarmi dall'idea di come si possa essere scatenata quella forza brutale che la massa dei suoi muscoli evoca. Troppi muscoli non aiutano l'aspirante attore. Appunto, gli saranno serviti ad altro. È molto curato nell'aspetto, pulito, camicia lavata, stirata di fresco, capelli corti, acconciati con il gel. Educato, sorridente. Eppure, il suo nome è Goran. Oggi qui si sfioreranno i 5 gradi, con una umidità tale che pare di stare sotto zero oltre che sottoterra. E Francesco indossa una maglietta di cotone con le maniche corte. Sa diventare rosso, io ho smesso di chiedergli se non abbia freddo. Il suo sangue scorre veloce e di sicuro scalda. Noi due normali ci abbiamo messo poco a rassicurarci. I mostri, quanto ai traditori raccolti in questa sezione, hanno tutti qualcosa che ci somiglia, che ce li rende familiari. Questo è un dato di fatto. Sono uomini. E allora? L'essere umano è mostruoso? O i mostri hanno una forte umanità? Sono questi i mostri? O forse esistono solo azioni mostruose? La normalità sembra riguardare poco anche noi dalla fedina penale virtuosa. Noi che ci indaghiamo tra non pochi problemi. Nessuno degno di attenzione qui dentro, dove ogni pensiero portato da fuori diventa banale, dove si prova un brioso sgomento a riconoscersi tutti uguali nell'esercizio dell'immaginare, dove lo stesso sgomento copre un evidente uguale bisogno, dove certi muri sono comunque incrollabili, dove ogni domanda sembra sbagliata e il pudore cambia connotati come il senso del dolore e dell'amore. Il medico militare e c'hai fuoco nelle vene. Adriano pare molto meteoroso, fantasioso fino al punto di perdere il controllo. Tosse per mene come il concio per la sera. Io cerco sene come il maiale cerca la ghianda. Quante fie di rosso inventa il concimaio? Mi ore battia dopo un trattore al minimo, un sasso giù per il ciottolaio. E l'amore nacquette, tamo, dio bestia! I mio papà e la mia mamma gli erano contadini. Sì, a parte qualche eccezione, proponiamo degli esercizi di semplice lettura, stralci da opere di generi disparati, con difficoltà di vario livello. Sollecitiamo improvvisazioni molto libere, ad una, due persone alla volta, indicando magari solo il luogo in cui vogliamo ipotizzare lo svolgimento di un'azione. Per esempio, la sala d'attesa di un ospedale, magari quella del reparto maternità. Oppure un parco pubblico, dove su una panchina siede un uomo che legge e non vuole essere disturbato da uno sconosciuto che sopraggiunge. Mi chiedo fino a che punto questi uomini si avvicineranno a quello che è il lavoro dell'attore. Certo è che il rapporto con la propria realtà interiore a servizio dei nostri esercizi a volte è sorprendente. Lo racconta un guizzo della voce, la chiarezza di un gesto, l'evidente capacità di estraniarsi dal contesto reale per vivere quello immaginato. Qualcosa che ha a che fare con un'altra arte, quella della sopravvivenza. Confesso che non mi aspetto una risposta immediata né consapevole del lavoro su di sé, ma la prova di quanto questo risuoni dentro di loro mi esalta. Spesso però tutto precipita nel buio. Sì, all'inizio è così. Saperlo aiuta, nutre, fino a un certo punto. Un militare sta pilotando un elicottero. Hai su fianco un commilitone o la stessa sorte disgraziata. Precipitare per una avaria in motore in una boscaglia. Il dialogo che Adriano ipotizza è degno della sceneggiatura di un film d'azione americano. E la volta successiva, e vi porterò disegni di tutte le inquadrature di film, così me l'ho visto. L'immaginazione, come atto visionario, sembra denunciare un desiderio profondo di cambiamento oppure solo il rifiuto della realtà, e chi lo sa. Per fare teatro in carcere, perché questo abbia un senso, scegliamo di raccontare la miseria quanto la follia, il crimine quanto la giustizia e tutto l'indicibile umano con le parole dei più grandi drammaturghi e poeti di tutti i tempi. Scegliamo spesso anche di tradurre nei dialetti di ciascun attore le parole dei drammi da rappresentare. Questo, che è un tradimento, si rivela spesso un primo atto di fedeltà profonda allo spirito del testo. Grazie a questo ci concediamo la libertà di sperimentare e sperimentarci oltre un limite che fuori non sarebbe neanche più possibile. Nella società civile, la ricerca, come lo studio, beni di prima necessità per attori e non solo, paiono un lusso e come tale da eliminare in tempo di crisi. Giancarlo, l'altro medico, voce impostata e faccia da simpatico marpione, ha poco a che fare con lo scrittore sardo che è venuto lì per qualche incontro solo a leggerci col sorriso sulle labbra i suoi scritti grondanti dolore e ingiustizia e sangue ormai secco su ferite aperte. Racconta di come ha dato di matto davanti al direttore dell'ennesimo manicomio criminale che lo accoglieva. Mi alzo per dirgli, posando la mia mano sulla sua spalla, che non posso sopportare l'idea che sia stato torturato in un letto di contenzione per giorni, legato, costretto a fare i suoi bisogni in quella condizione, e quella lametta che nascondeva nella guancia, che servì per aggredire alla gola chi gli si era parato di fronte, me la sento in bocca io. Non ce la faccio, credimi, questo momento e questo luogo non sono giusti. Qui si fa teatro. Io non sono un assistente sociale, non sono una psicologa né una suora. Perché dovrei ascoltare quello che tu scrivi in modo sapiente, peraltro? Volendo lo possiamo teatralizzare. Non riesco ad allontanare la nausea per il dolore dell'impotenza. Lui, lo scrittore, è un testimone sopravvissuto a quei lager per emarginati che sono gli OPG, ospedali psichiatrici giudiziari, dei quali so quel poco che basta a rendermene solo il pensiero insopportabile. E mi vergogno. Non sono vostra madre, né la direttrice, né un insegnante di lettere, né una vostra parente. Io sono un'attrice e lo sono da 30 anni. Vi posso raccontare come si fa il teatro per quel che ne sappia ad oggi, che ho scelto di venire qui. E lui, trasandato nell'aspetto da sessantenne intollerante alle regole, mi sorride e dice: ma adesso quello che ho appena letto è passato, sono qui, sto bene. Scrivo, e quello che scrivo ve lo voglio leggere, perché su queste cose bisogna riflettere. Non verrà più. Difendo il senso della mia esistenza qui, dicendo in ogni modo quello che non è teatro. È sufficiente essere un'attrice. Intuisco che qui è importante non essere tante cose. E loro? Che si aspettano? Che cosa li motiva? Che cosa li allontana da quest'isola eletta? Da questo luogo fisico che ora non è più solo una cappella? Sicuramente non sopportano discriminazioni. Non sopportano la loro stessa invadenza. Sono assetati di attenzioni. Vogliono dimostrare. Fare bella figura, fare gli artisti. Il teatro è un'arte? Di cosa? Qual è l'oggetto di cui si occupa? L'uomo vivente? L'uomo che agisce? Dunque, l'azione. E quando l'azione diventa una forma d'arte? E se così è, quando la realtà che rappresenta assume quella dimensione trasfigurante che la fa diventare poetica? Cioè teatrale. L'impiegato statale dipinge. Dipingerebbe anche qui se avesse il permesso di avere colori, pennelli. Prova a chiedermi se lo posso aiutare. Mi porta lettere e disegni fatti con le matite colorate. Ha i capelli bianchi e mi dice di avere 4 figli. L'ultimo di 12 anni ha avuto con una straniera che non è la madre degli altri. Igor è l'unico che riesce a farmi sapere quello che molti detenuti vorrebbero dire. È innocente e tutto il resto. È discontinua la sua presenza, come quella di molti che cercano di capire che cosa possono prendere da questo teatro. Chissà che si dicono. Fuori da questo luogo sospeso, in cella, al passeggio, nel silenzio delle loro menti affollate, quanto la mia. Il silenzio è la nostra lingua segreta. Noi qui abbiamo imparato a parlare così. Mi dice uno di loro lo stesso giorno in cui trovo, tra le pagine del mio copione, un foglietto piegato in 4, scritto a stampatello. L'artista. Guardo questo teatro vuoto e spento, come freddo. Salgo sul palco e chiuso il sipario. Sale una nebbia sotto i miei piedi. Parte una melodia. Mi tremano le gambe, vorrei fuggire via. Ma poi apro il copione, rileggo la mia parte. Si apre il sipario, sono in scena. C'è il silenzio. C'è una risata, c'è una lacrima, c'è un applauso. T'ho trasmesso il mare, t'ho trasmesso il rumore, un paesaggio. Come si fa? L'artista dà se il pubblico riceve, e se il pubblico riceve, l'artista sei tu. Si chiude il sipario e scendi dalle nuvole. Fabio non viene quasi più. Oggi offriamo Palazzeschi in versi. Toni cede alle lusinghe di quella che potrebbe rivelarsi una parabola interattiva. Che la posso fare questa poesia? Mi piace il titolo, L'assolto. Certo, rappresenta per lui un'occasione per raccontare la sua voglia di riscatto. Toni darà voce e anima a un personaggio cui sente dignitosamente di assomigliare. Quanto gli piacerebbe ostentare la sua sentenza di assoluzione. Ci provo! Il fatto che si tratti di una poesia lunga non lo spaventa, anzi, lo metto subito in guardia su un'insidia del dire poesia. Il ritmo non deve consentire all'accentuazione metrica di prendere il sopravvento sul contenuto. Vanno rispettati entrambi, possibilmente. Ripeto che ogni sillaba va scandita pienamente e l'ultima di ogni parola non deve perdere udibilità. Una prova non semplice per un aspirante attore. Prego. E allora che i miei buoni fratelli mi avevano due volte sepolto, disse una voce, io non so come e dove. Assolto, mancanza assoluta di prove, mi si apersero tutte le porte, si apersero tutti i cancelli. Assolto, io sono l'assolto, miei cari signori, e ora che sono fuori, guardatemi bene in viso, ho ucciso. Assolto, e è la mia professione che intendo bene di sfruttare dal suo lato migliore. Assolto, appena uscito mi accorsi subito qual era il miglior partito: fuggire, nascondersi agli occhi della gente, ma che? Sottrarsi alla sconcezza del dubbio che rivesto, ma che? Revestirlo dignitosamente gli è conteso in voltura, ma che? Niente. Gli si pizze senza misura, generosamente. E perciò che io frequento le sciade, i passeggi, i teatri, i caffè, come ogni altro uomo non assolto. Cioè qua vuol dire che in circolazione, a piede libero, ci sono persone che hanno commesso reati non assolte, appunto, che dovrebbero stare in galera, e che magari in galera ci vanno gli innocenti, eh? Qualcuno, non tutti. Ma bisogna avere fortuna nella vita. Continua la poesia, è meglio. Tony dice che tutto sommato recitare non è difficile, è come organizzare una rapina. Con i suoi complici c'era un copione collaudato. Per esempio, appena scesi dall'aereo, raggiunta l'Olanda, si cambiavano d'abito per indossare il ruolo degli uomini d'affari. Yendax, la prima scena del film che ci avrebbe visti i protagonisti dei grandi coppi, ai danni di chissà chi. Crolla l'ennesimo tabù e noi stiamo per dare vita a un progetto insieme a questi criminali, a questi uomini come noi. La pedofilia, così come la violenza sessuale su una donna, su uno o più adulti, mi fa orrore. Mi impedisce di andare oltre le parole pedofilo, sex offender, stupratore. Mi si annebbiano le capacità intellettive, vedo sangue, sento l'urlo lacerato di un dolore infernale. Eppure sono qui. Massimo invece un giorno abbandona perché lì sotto ci si ammala per il freddo e lui aveva la febbre e anche il mal di schiena. Perché non ti metti un altro maglione? Perché non ce l'ho. E perché non ce l'hai? Io non faccio colloqui perché mio padre e mia madre sono morti e con mia sorella non mi parlo. Una stufa. Ci vorrebbe una stufa, potremmo farne richiesta, così facciamo. Promettono e non mantengono. Se poi dopo tu ti trovi a lavorare qui, passi da libero, le stesse sorti riservate ai detenuti. Se poi quelli sono detenuti di infimo ordine, allora nel cielo dell'attesa ci rimani pure tu. Ecco. Il panettiere tremutato che tanto mi fa ridere non viene più. Chissà perché. Ci ha mandato a dire solo la sua inadeguatezza a stare in quella cappella così inospitale e fredda. Come dargli torto? E io lì, come un mammut, insieme a quello che sta diventando il gruppo degli attori, dei motivati, dei temprati, dei fedeli, dei costi quel che costi, dei diversi, dei disperati come me. Che cosa ho detto? Sono una donna, non me lo dimentico mai. Sono una donna da sempre, sono fiera di esserlo, sono un esempio, sono l'ostacolo, un pericolo, il bersaglio, sono la provocazione, il buio, la confusione, la libertà, l'oggetto. Sono la madre, sono mia madre, sono l'intuizione, l'inconcludenza, la bellezza imperfetta, sono la bambina sepolta, sono la bambina liberata e la sua liberatrice, l'urlo, il silenzio. Non so se qui c'è qualcuno che si sia macchiato di reati sessuali. È perché non posso negare che c'è un pensiero nero seppia che sovente mi tende a guati, ma che spesso mi sfugge, poi ritorna come il frammento di un'istantanea perduta, come una fiaba frantumata. Una mano bagnata, con delicata violenza, dolcemente sfiora la curva acerba di un seno. Il vestitino con le maniche a sbuffo resta intatto sulla sagoma della bambina di pietra. Sei bella e brillante come una licetta d'argento, dice il pescivendolo. Lo sai che diventerai una sirena? Fammi vedere dove sta nascosta la tua bella codina. Vuoi che ti mostri il regno delle principesse come te? Scommetto che non hai mai visto il mare con la luna. La pietra che la bambina si spappola dentro si disfa. Le gambe gracili sembrano perdere il sostegno delle ossa e una crepa si apre sulle ginocchia e crolla il collo e la testa con gli occhi che sbattono sugli enormi stivali di gomma bagnata dell'uomo. Il sole dell'acqua di mare fa piangere gli occhi, rovina la gonna dal bordo ricamato. Come in un terremoto vicino al mare, ogni parte della scultura di pietra si sgretola e si bagna, ogni pezzo diverso trasuda sangue e sale e si perde nella risacca di un'onda vorace. Che peccato! E sera, e la tempesta acquietata adesso riecheggia nello sguardo in tumulto dell'uomo su quello che resta di un capolavoro ormai svanito. Tu entri nella testa delle persone come una guaritrice. Come fai? Mi dice un giorno Igor, l'innocente pittore. Non lo so. Conoscere l'altro da me, cercare una spiegazione per ogni umana azione, non in cerca di assoluzioni, ma di motivi. Sì. Bene, oggi sarà meglio concludere con una rassicurazione. Il teatro ci costringe a conoscere di un fatto della vita l'inizio, lo svolgimento e la fine. Il teatro dunque è rassicurante. Infatti molti attori quando recitano godono di uno stato di grazia serena, perché in palcoscenico tutto è noto, tranne un fatto: il teatro si fa in due, contemporaneamente e dal vivo. Il pubblico è l'altro, e questa ogni volta la vera incognita. Più convinzione nel racconto, Claudio. Se non ci credi prima tu, non ci crederà nessuno. Quando dici io fo buchi nella sabbia, come dici tu? Io faccio partusere in da sabbia. Vabbè, devi sapere come stai. Come stai? Mi sento sola. Una zattera in mezzo a un mare di dubbi. Mi sento svuotata. Ho un buco che vuole riempire una voragine. Che ne sarà di noi? Che ne sarà delle nostre parole non dette su quanto sembra perfetto? Tutto questo osceno, perfetto, come il teatro che qui si riappropria del suo misterioso e naturale senso. Che cosa siamo venuti a fare? Ci siamo forse creati degli impedimenti per incontrare chi è portatore di altro inquieto disagio ed ora ci stiamo riconoscendo. Che ne sarà di noi, inconsapevoli di tutto questo? Non posso fermarmi. Il corridoio è lungo. E poi ce n'è un altro, e poi un altro ancora, e poi un altro ancora, e poi c'è una piccola chiave che apre un armadietto che ho custodito per il tempo che sono stata dentro la mia borsa. E soprattutto il telefono cellulare. Il carcere è l'unico posto dove se porti un telefono cellulare passi guai, commetti un reato, e non ne ho bisogno. Faccio volentieri una pausa dal mondo e mi chiedo perché sono qui. Ci siamo infilati in un brutto tunnel. Mi sto affezionando. Mi sono fatta l'idea che Gigi abbia tre fedi: la mamma, la Madonna e la Roma. Racconta di quando ha incontrato per la prima volta Mino, il cantante, appena arrestato. Oh. Era arrivato in galera con vestito tutto laminato, cappotto di pelle nera lucida lungo fino ai piedi, biondo, mesciato, a scarpa con lo scrocchio, a sciarpa de cashmere colore viola. Questo Vargi 12 vuole al posto suo, ho pensato, e invece non me lo so ritrovato dentro la sezione mia in cella con me. Ma che boss è boss, era cantante. Oh, mongoloide, Nardisa, bravo pure. Posso dire questa poesia? La so a memoria e in italiano. Togli ancora, non dice sta poesia. Oh, questo fa il gombista, ma è bravissimo, La poesia è tradotta in italiano ed è bellissima. Scopriremo che è stata scritta dal poeta turco Hikmet negli anni della sua prigionia. Togli ancora. Benvenuta, donna mia, benvenuta. L'intelligenza del suo cuore e quello che mette dentro quelle parole arriva come un ago sottile e lungo e commuove. Goran è anche il partner di Massimo nel ruolo di Galileo Galilei. La mandibola di Massimo si è chiusa da molto tempo. Lo slittare da destra a sinistra che faceva bocca ormai chiusa non gli serve più. Gli occhiali non li porta perché la parte l'ha imparata a memoria. Dovresti provare a imparare la memoria, gli avevo detto qualche mese prima. Lo sguardo di Massimo era sgomento. Una pausa prima di sentirmi dire gravemente: non è facile. Vabbè, solo se puoi, perché so che in quel modo ti divertirai, sarai libero senza questo foglio in mano. Queste parole saranno nella tua testa e tu sarai Galileo, il grande scienziato. Ormai lo spettacolo è in cantiere, ma il palcoscenico è un luogo fisico ancora sconosciuto. Dopo aver detto che si può fare teatro in qualunque luogo, è il momento di raccontare quello vero e proprio dove ci esibiremo. Il teatro di Re Bibbia. Dietro l'altare immaginiamo ci sia il fondale, che sarebbe come una tela che fa da sfondo e che vi permette anche di passare da una parte all'altra del palcoscenico senza essere visti. Passaggio non a vista. Attenti a non sforare, che il pubblico non vi veda. Se uscite dalla quinta destra e dovete fare la successiva entrata in palcoscenico da sinistra, dovete utilizzare un passaggio protetto, quindi dietro il fondale. La quinta sarebbe una porta. La quinta è una quinta. Serve a dare l'illusione di uno spazio chiuso. Ce ne possono essere due o più per lato, in fila, distanziate l'una dall'altra in modo prospettico e che consenta l'entrata e l'uscita degli attori. È come un telo e una stoffa armata che forma un rettangolo che viene inchiodato sul piano del palcoscenico oppure viene giù dalla graticcia. Provate a guardare su e immaginate una grande soffitta fitta costituita da travi di legno e di metallo che formano una grande fitta grata che il pubblico non vede, ma che fa da supporto con corde e rocchetti a proiettori ed eventuali elementi scenici. Ma qui c'è solo l'immaginazione. La potenza dell'immaginazione ci cattura, ci unisce, ci capiamo. Ho come la sensazione che cominciamo a parlare lo stesso linguaggio. La nostra cappella sembra davvero una sala prove. Sono esausta e contenta al tempo stesso. In realtà, nella cappella del G9 ci sono solo un neon e i ceri della Madonna e di Padre Pio che per rispetto non accendiamo. Se uno spettacolo teatrale e un rito religioso hanno molte cose in comune, tutto sommato siamo nella suggestione migliore che un luogo fisico diverso da un teatro possa dare. Mettiamola così. E poi c'è la tenda. Chiamiamolo sipario. Il sipario segna la separazione tra il palcoscenico e la sala. Si apre il sipario e lo spettacolo comincia. Oggi non è giornata. Ho la sensazione di perseguire una causa persa. Ho la sensazione di fare teatro qui solo perché mi va. Sembra una cosa in più. E invece non è una cosa in più. Già articolo 17, volontariato. Il teatro è indispensabile. Nella vita di un essere umano lo è. È indispensabile inserirlo tra le soluzioni di recupero. Ammesso però che se ne riconosca il valore. Ma non ci sono i mezzi per questo come per molto altro. È un alibi. Nessuno si appassiona al pensiero di perseguire questo obiettivo con l'idea del successo. Questi uomini sono condannati a marcire nei loro patologici escrementi dai quali nessuno li tirerà mai fuori. Torneranno a delinquere, a stuprare, ad essere sopraffatti dalla loro malattia, dal vizio mentale, dal vizio comportamentale aggravato dalla privazione della libertà come punizione, dall'infamia della propria violenza, a sentirsi intrappolati dall'incapacità di aiutarsi. Torneranno a violare respiri innocenti quando non saranno annientati dal carcere, quando non si suicideranno. Sovraffollati e sciagurati troveranno il modo per restare soli giusto il tempo di farsi fuori con le proprie mani. Sperare è pericoloso. Bisogna agire presto. Cominciando con il teatro, per esempio. Devo farmi coraggio. Tutto questo non sarà inutile, posso crederci. Accadrà. Accadrà. Eppure qui, al precauzionale, in ore come queste le energie scarseggiano e la solitudine si fa pesante. L'aria è maleodorante oggi. Ha piovuto molto nei giorni scorsi e la nostra cappella, come al solito, si è allagata. Ho un posto dove mettere le cose che non capisco. Quelle in attesa di giudizio, le mie contraddizioni. La valutazione che nell'economia di una vita da non buttare via, certe scelte conviene farle. La bellezza nasce dal dolore e la bellezza salverà il mondo. Che bella frase. Peccato che oggi mi sembri solo una solenne cazzata. Anche a Rebibbia arriva primavera. Anche oggi sono arrivata alla sezione G9 più o meno puntuale. E come sempre attendo che venga comunicata al primo piano la mia presenza perché si inizino le procedure di discesa dei detenuti che fanno parte del gruppo teatro. Gruppo teatro! Gruppo teatro! E intanto, con rassegnazione, aspetto. E tacitamente solidarizzo con le guardie. E con i ladri. So che tra 15-20 minuti saranno qui. Intanto supero l'ultimo cancello, quello che dà accesso alle due rampe di scale, una che sale e l'altra che scende nel seminterrato dove c'è la nostra cappella. La gente mi dà la chiave, apro la porta di ferro, costeggio la parete destra, sollevo dalla parte inferiore la grande immagine sacra incorniciata che copre il pannello di comando delle luci. So a memoria che il terzo interruttore accenderà i neon centrali. Luce insalubre, come l'ambiente d'altronde. Pochi passi mentre raccolgo pensieri alla rinfusa. attraversati da una sensazione di cupo sollievo che provo a stare qui. Ascolto l'eco delle suppliche e l'odore di questo silenzio. Il solito odore acre, dice il passaggio libero dei gatti del carcere, misto all'assenza assoluta di un raggio di sole. Chissà che punto saranno della conta. Generalmente arriva Francesco per primo, ma oggi neanche lui. Mi alzo dalla panca, dove invece mi sdraierei per distendere la schiena. Un giorno scriverò di questo momento solo per riassaporarne l'inspiegabile conforto. Qui forse vengo a trovarmi. Com'è chi va a fare visita a una persona cara che non si può muovere? Perché deve stare lì? Queste persone e questi luoghi mi sono cari, come fossero me. Come fossero me. Ma non posso dirlo. Vengo a trovare quella me che viene a trovare loro. Il disagio mi riguarda. Mi è parente. La parte buona di noi investe in questi incontri. Nostro malgrado. Malgrado noi. La parte buona di noi ha voglia di riscatto. In questo luogo sacro, chi scaglierà la prima pietra? Temo che la prima pietra sia andata perduta. Nessuno ricorda più com'è fatta. Chi è senza peccato? Qualcuno sa che c'era. Forse i miei attori in questo momento la stanno cercando per portarmela in dono. Uno di voi mi tradirà, disse Gesù ai suoi apostoli. Col camice bianco appare Francesco. Finalmente, che succede? Non lo so, come va? Bene. Nessuno qui è indifeso, nessuno qui ha energie da regalare. Ognuno per sé, Dio per tutti. Cresce la spiritualità, che nutre la forza di sopravvivere alla sensazione di marcire dentro le proprie miserie. Dentro gli abiti lisi che ci sono rimasti, gli unici. C'è chi taglia e cuce brache, chi leoni addestra in gabbia, chi va in cerca di lumache. Io fo buchi nella sabbia. Io faccio partosi in da sabbia. Shh, silenzio! Per favore, un attimo, un po' di pazienza. Abbiamo ottenuto la possibilità di provare in teatro due volte prima del debutto. Shh, per favore! A parte Mino, il nostro cantante, nessuno di loro è mai entrato in un teatro, né come spettatore, né tantomeno come attore. Però ognuno ostenta disinvolta tranquillità. Oggi si sono presentati tutti particolarmente ben vestiti e curati nell'aspetto, barbe rasate, capelli in ordine. Dovrò dire loro qualcosa prima di varcare la soglia del luogo che fino a ieri ho cercato di descrivere nei minimi dettagli. Il teatro, un luogo senza misteri né insidie. Vorrei anche dirgli che quello che gli ho raccontato è vero, quanto lo è il contrario. Che la conquista della libertà sta nel poter cercare quello di cui si ha bisogno e soprattutto nell'indagare qual è il nostro vero bisogno. Che fare teatro è una salvezza, un privilegio, un grande piacere, e che sprecarlo sarebbe un sacrilegio. Vorrei dire, dimenticate tutto e divertitevi! Forse basterebbe un caffè. Si apre la grande porta che dà sulla platea e nell'attesa che si accendano le luci in sala e in palcoscenico, silenziosi gorgoglii misti a parole di circostanza vagheggiano di un'ansia giustificata in tutti noi. Stiamo vicini come in branco, profumati di buono, esperti di storie estreme, ora neonati di ferocia smaniosa d'artista. Avanziamo sulla scia che da fuori fa un corridoio confuso di penombra, poi la luce rivela. Ogni incedere appare sicuro, Ogni attore conosce il percorso, le insidie degli angoli dietro le quinte. Ognuno appare padrone del luogo conosciuto finora solo a parole. A parole. Penso a tutte le volte che ho raccontato il teatro con le parole, all'immaginazione che ci ha tenuti collegati l'uno all'altro saldamente. Abbiamo superato ogni prova di adattamento alla realtà vera. Incredibile. Ogni cosa ha preso il suo posto. Come in una compagnia teatrale che si rispetti. Meglio che in una compagnia teatrale che si rispetti. Le 350 poltrone color ciclamino accolgono il pubblico che quasi riempie la platea. Gli attori pronti dietro le quinte. Intercapedine dei discorsi di rito dei rappresentanti delle istituzioni presto si dissolve sul sipario chiuso dove finalmente cala la luce fino al buio e insieme a questo finisce l'attesa. Dai Egoran, tocca a te. Oh, devi dire la poesia del poeta turco. Goran, alzate da qua a sedia. Vai al centro, come le prove. E parla con l'animo gentile a ogni donna, a qua donna che devi davete in fondo al teatro. Mi sto emozionando. Mi pare di sentirlo. Il respiro di sta donna. Dietro la schiena. Donna mia, donna mia, benvenuta, donna mia, benvenuta. Certo, sei stanca. Come potrò lavarti i piedi? Non ho acqua di rose, né catino d'argento. Certo, avrai sete. Non ho una bevanda fresca da offrirti. Certo, avrai fame. E io non posso apparecchiare tavola con lino candido. La mia stanza è povera e prigioniera, come nostro paese. Benvenuta, donna mia, benvenuta. Hai posato il piede nella mia cella e il cemento è divenuto prato. Hai riso e rose hanno fiorito le sbarre. Hai pianto, e perle sono rotolate sulle mie palme, ricca come il mio cuore, cara come la libertà, e adesso questa prigione. Benvenuta, donna mia, benvenuta. Se il tempo è la velocità con cui si svolge un'azione, e il ritmo e l'intensità emotiva del tempo mi pare d'essere in una dimensione siderale. Rotolano dentro i miei occhi e le mie orecchie le parole dei poeti mai più giuste di così. Viviamo la finzione come cosa reale e convinta. Ognuno di noi che assiste protagonista dell'intestimoniabile che è per sua natura il teatro. Il resto è silenzio, amniotico silenzio, denso di ogni ben di Dio, quello dell'ascolto, visioni, desideri, evocazioni atemporali, racconti da mangiare su una tavola imbandita per la pace degli occhi, ognuno nel suo tunnel e tutti noi insieme fino alla fine. Fragore di applausi esplode e sfonda, la platea è invasa. Loro in palcoscenico, io in prima fila. Siamo increduli. Non sapevamo di essere capaci di questo. Di tanto, migliore di noi. A pagamento inconciliabile con questo luogo. Eppure ora questa è la libertà. Questo è il luogo del sogno, della trasformazione dell'impossibile in cose vere. Reclusi, liberati, il luogo libero chiuso. Autori e vittime di massacri del cuore. Uomini come uomini. Il dolore ora ride disorientato. È il delirio della felicità che dura un secondo, ma che si può toccare. È pura, senza macchia, solo per un infinito secondo. Occhi radiosi bucano la penombra, compaiono e scompaiono dietro il movimento delle mani che sbattono tra loro. È l'applauso. Quanto durerà? Quanto durerà il ricordo di questo momento? In quanti lo racconteranno? Quanti scaglieranno pietre su questa nuvola che galleggia a bassa quota, sostenuta da questa musica? Mi sento libera di osare, di pensare di aver osato fare la cosa più elementare e complessa: comunicare, attraversare le acque di certe visioni oscure che fanno paura, agguato, toccare la luce. Abbiamo vissuto come se ci fosse la dignità, come se ci spettasse, e invece ce la siamo rubata e abbiamo fatto come se fosse nostra. E ora ci squazziamo. Quanto durerà? Quanto durerà il processo per furto perpetrato a nostro legittimo vantaggio? Guardo i loro volti che ringraziano in proscenio. Li applaudo. Li riconosco. La commozione è vera. Li ringrazio. Questa dolcezza è tutta per voi.